Passo la parola a Gianfranco Costanzo, direttore sanitario dell'Istituto Nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti e per il contrasto delle malattie della povertà, in sintesi INMP. Devo dire un nome molto lungo e impegnativo, perché impegnativa è come si dice la missione che l'INMP ha. Quindi lascio la parola a Gianfranco Costanzo e ringrazio di essere qui con noi. Bene, allora innanzitutto permettetemi di ringraziare l'Istituto Psicoanalitico per le Ricerche Sociali per aver dato l'opportunità all'INMP, noi ci chiamiamo così, è molto più breve e anche molto più diretto, di partecipare a questo incontro. Devo dire che mi sembra che dai primi interventi, gli interventi che mi hanno preceduto, quelli di Assunta Rosa, di Patrick Doyle, come dire, io possa cogliere un primo elemento, quello della intersettorialità e della messa a sistema, come dire, anche degli interventi pubblici che vanno nella direzione di assicurare una maggiore efficacia a livello nazionale. Faccio l'esempio che Patrick Doyle ha citato, quello di iCare, che è un progetto appunto che è stato da loro finanziato ad alcune regioni italiane. Ecco, l'esempio virtuoso, direi, da questo punto di vista è che le regioni di cui parliamo hanno chiesto a noi di NMP di poter utilizzare il sistema, un sistema informativo sanitario che noi abbiamo sviluppato partendo anch'esso da un finanziamento europeo, ma poi specializzandolo, quindi un sistema che si chiama SAVE, tant'è che oggi abbiamo sottoscritto con alcune di queste regioni, con molte ASL, degli accordi per poter quindi rendere disponibile il nostro sistema e permettere a queste regioni che partecipano a Daycare di raccogliere i dati secondo un concetto di appropriatezza anche della raccolta. All'interno di questo sistema cito semplicemente le linee guida per i controlli alle frontiere, la frontiera dei controlli. Questo sistema appunto guida l'operatore nella compilazione appropriata a seconda dello stadio del sistema di accoglienza in cui il migrante rifugiato si trovi, così come include l'accertamento per l'età anagrafica del minore straniero accompagnato, il protocollo che noi abbiamo contribuito insieme al Ministero della Salute e quindi con lo sforzo enorme del sottosegretario che qui ci sta ovviamente ascoltando. Ricordiamoci appunto la legge appunto parte dal sottosegretario, quindi nel 2017 il protocollo era un protocollo che da prima era stato quindi elaborato in una versione iniziale, noi abbiamo aiutato il Ministero a portarlo a termine e quindi questo stesso protocollo nella modalità quindi di esecuzione corretta è inserito all'interno del sistema. Questo per dire appunto che esistono già oggi in Italia degli esempi virtuosi di messa a sistema tra le esperienze, come dire, finanziate con fondi pubblici, magari alcuni di tipo europeo, altri di tipo nazionale. Però non perdo molto tempo perché ora vado diciamo, direttamente alla mia presentazione. Se voi vedete questa presentazione, immagino di sì, se no fatemelo sapere in qualche modo che cercherò di capire. Io ho voluto dare, vorrei dare in questi pochi minuti che ho a disposizione, ora, come dire, cerchiamo di entrare un pochino più nel piatto della clinica, cioè stiamo parlando un pochino di questioni che poi i nostri colleghi psichiatri e psicologi potranno approfondire dal punto di vista della clinica. Io qui vorrei dare un contributo come Istituto Nazionale alle evidenze, quindi oggi che sono disponibili, sul discorso della salute mentale dei migranti forzati a livello della regione europea dell'OMS. Diciamo che l'Istituto Nazionale è stato appunto introdotto, nome un pochino lungo, però fondamentalmente è un ente pubblico del Servizio Sanitario Nazionale che è vigilato dal Ministero della Salute, insomma come Agenas, come Istituto Superiore di Sanità, quindi come AIFA e così via. Ha il mandato però di sviluppare modelli clinico-assistenziali e di presa in carico appropriata delle persone con fragilità e marginalità socio-sanitaria e per fare ciò, unico nel sistema del Servizio Sanitario Nazionale, eroga assistenza sanitaria, ma conduce anche attività di ricerca e di formazione. Quindi è centro di riferimento della RENIP, che è la Rete Nazionale per le Problematiche di Assistenza in Campo Socio-Sanitario legate alle popolazioni migranti e alla povertà, a cui partecipano soggetti del privato sociale, ma anche le regioni italiane e le province autonome, il Centro Nazionale per le Mediazioni Transculturali in Campo Sanitario. Questo è un argomento molto importante, appunto, se parliamo appunto di persone straniere che quindi si interfacciano con i nostri servizi socio-assistenziali, ma è anche il Centro Collaboratorio dell'OMS per l'Evidenza Scientifica e il Capacity Building sui migranti. È proprio in questa prospettiva che io vorrei appunto iniziare questa breve presentazione. Cioè l'UNHCR ci dice nel 2019 in un loro rapporto che circa 80 milioni di persone sono sfollate forzatamente dai loro paesi e dai posti in cui vivono a causa di persecuzioni, di conflitti, di violenze e quant'altro. Di questi 80 milioni, 26 milioni sono rifugiati, 45 milioni e 700 mila persone sono sfollate interne, cioè vuol dire all'interno dei loro paesi, dei loro stati, quindi non una migrazione internazionale. 4,2 milioni sono richiedenti asilo e 3,6 milioni sono i venezuelani che sono sfollati all'estero. Quindi rendiamoci conto anche dell'impennata che c'è stata negli ultimi anni di questo fenomeno. E allora diciamo anche dal punto di vista della terminologia, l'UNHCR sempre preferisce chiamare i gruppi di persone in movimento piuttosto come rifugiati e migranti. Questo per un discorso di riconoscere subito i loro diritti umani. Quindi i migranti e i rifugiati sono titolari di diritti particolari, generali, ma anche che debbono essere giustamente rispettati, protetti e soddisfatti, ma anche in quanto richiedenti asilo e rifugiati sono destinatari di bisogni e di diritti specifici e quindi li inseriscono all'interno di un quadro giuridico. Quindi capite tutti che disporre di un quadro conoscitivo reale di quello che realmente è lo stato di salute dei rifugiati e dei migranti è il punto essenziale della sanità pubblica, punto essenziale anche per la programmazione di tipo sanitario, cioè produrre politiche sanitarie in ragione del fatto che appunto i dati relativi allo stato di salute dei rifugiati e dei migranti nel nostro paese, ma come in altri paesi, siano conosciuti. Quindi la raccolta, la condivisione dei dati standardizzati è fondamentale anche per soddisfare la visione dell'Agenda 2030 e pure raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile e la copertura sanitaria universale. Nel 2018 l'INMP ha supportato l'OMS nella produzione della stesura del primo rapporto sulla salute dei migranti e dei rifugiati nella regione europea. È stato un grosso lavoro, noi abbiamo curato tutta la parte epidemiologica, quindi il capitolo 2, facendo praticamente una scope and review con più di 13.000 articoli analizzati e valutati in inglese e in russo dal 2014 al 2018. Nel 2020, recentissimamente, abbiamo prodotto, sempre per OMS, la guida tecnica sulle strategie e gli interventi per rispondere alle violenze e agli incidenti tra i migranti e i rifugiati. Sappiamo che questa tematica è intimamente connessa alle migrazioni e ai rifugiati, in quanto le violenze e quindi gli incidenti nel viaggio, nel corso del percorso, la partenza, il viaggio e l'arrivo, sono fenomeni assolutamente collegati. La sottosegretaria Zampa, noi abbiamo avuto il piacere insieme al Ministero appunto di presentare questa linea tecnica qualche mese fa, quando la pandemia era ancora all'inizio, diciamo, e quindi qui abbiamo fatto una scope review importante di articoli scientifici del dottor De Grigia dal 2010 al 2017. Questo per dire che cosa? Che fondamentalmente il rapporto dell'OMS ci dà uno spaccato relativo anche agli aspetti di salute mentale. Ovviamente quando parliamo di salute noi non ci riferiamo solamente alla salute mentale, ma anche alla salute fisica. In questo caso appunto è possibile dalla lettura del rapporto anche avere uno spaccato di evidenze sulla salute mentale. E le persone, abbiamo visto appunto operando questo rapporto, che subiscono traumi relativi e violenze subite nel corso del percorso migratorio, le technical guidance lo provano appunto, e queste violenze e questi traumi aggravano di solito sensibilmente le sofferenze psichiche che già derivano dallo sradicamento dal paese nativo delle persone che appunto intraprendono un percorso di migrazione. Allora, parlando di evidenze, possiamo dire certamente che una prima evidenza è che la prevalenza dei disturbi mentali tra i rifugiati e i migranti mostra in generale una grande variabilità a seconda della popolazione studiata e dal metodo di valutazione. Quindi questo lo possiamo affermare con una sicurezza, come dire, di tipo appunto epidemiologico statistico. E questo, come dire, da un certo punto di vista ci apre a poter anche affermare che c'è ovviamente bisogno di approfondire gli studi scientifici su tale tematica, perché appunto le review che noi abbiamo analizzato, così come le sia di tipo sistematico ma anche di documenti scientifici pubblicati su riviste peer reviewed, non sono sempre univoche Inoltre i fattori di rischio per beni di salute mentale possono essere riscontrati durante tutte le fasi del processo di spostamento, quindi non solo all'arrivo, non solo durante il percorso, ma anche, sappiamo, nella partenza, anche perché la partenza molto spesso viene preparata mesi prima di lasciare tecnicamente il paese in cui si vive. Allora, diciamo, parliamo di disturbo post-traumatico da stress. Ne ho sentito parlare prima rapidamente. Diciamo che per quanto riguarda la sua prevalenza tra i rifugiati esposti a esperienze molto stressanti e minacciose, questa prevalenza appunto è risultata essere più elevata rispetto a quelle popolazioni ospitanti. Questo è un dato di fatto, e diciamo che la prevalenza della depressione e dell'ansia tende ad essere più alta che nelle popolazioni ospitanti. Quindi abbiamo disturbo post-traumatico da stress, depressione e ansia, che mediamente hanno una prevalenza più alta rispetto a quella riscontrata dalle popolazioni ospitanti. Ma diciamo anche che le variazioni a seconda del gruppo dei migranti e dei metodi utilizzati per valutare la prevalenza rendono difficile dare conclusioni definitive. Questo l'avevamo detto all'inizio, proprio come avvertimento alla lettura. Allora, anche le condizioni socio-economiche sfavorevoli, in questo caso parliamo molto spesso nei paesi di arrivo, come la disoccupazione o l'isolamento, sono associati a un aumento dei tassi di depressione tra i rifugiati dopo il reinsediamento. Diciamo che anche la migrazione è stata considerata un fattore di rischio di per sé, il fatto appunto di migrare, per le condizioni mentali dei bambini questa volta. I minori non accompagnati presentano tassi di depressione, sintomi di disturbo post-traumatico da stress più elevati in media rispetto ad altri gruppi di rifugiati e migranti. Allora, ancora, sono state riscontrate poche evidenze che riconducono alla vulnerabilità di rifugiati e migranti in relazione all'uso e all'abuso di sostanze psicotrope. E alcuni studi hanno dimostrato tassi più bassi di abuso di sostanze alcol tra rifugiati e migranti, nonostante la prevalenza del fumo sia stata più elevata. Quindi, se parliamo di appunto di abuso di sostanze, uso di sostanze psicotrope e abuso di sostanze, non c'è una correlazione appunto di aumento tra le popolazioni migranti e tra quelle rifugiate. E diciamo che per quanto riguarda i disturbi psicotici, essi sono stati valutati solo in studi clinici e non in studi di popolazione. Questo rende quindi impossibile stimarne la prevalenza anche in questo caso. Quindi vedete che anche la ricerca dal punto di vista della clinica e anche non ci aiuta granché su alcuni elementi, su altri invece ci dà una maggiore consapevolezza, una maggiore sicurezza. Se parliamo appunto dei minori, quindi dello stato della salute mentale dei minori, possiamo dire che i bambini rifugiati e migranti hanno spesso uno stato di salute peggiore rispetto a quello della popolazione ospitante tra i 53 paesi della regione europea dell'OMS, perché ricordiamo che il nostro rapporto è un rapporto appunto nei 53 paesi della regione europea. E c'è una meta revisione di 39 studi eseguiti in 8 diversi paesi europei che ha mostrato che la migrazione di per sé può essere un fattore di rischio per la salute mentale dei bambini. Lo aveva dimostrato anche in generale, abbiamo visto prima, tra gli adulti, però con disturbi prevalentemente internalizzanti, quindi il disturbo post-traumatico da stress, la depressione e l'ansia. Allora, ancora, possiamo dire che tali disturbi espongono i minori a maggior rischio di violenza organizzata e lo stress da migrazione. Abbiamo visto anche nella presentazione delle technical guidance sulle violenze e gli incidenti tra i migranti, che appunto il discorso della violenza organizzata, di far parte poi di una tratta, di essere poi abusati e quant'altro, è molto molto presente come rischio tra le popolazioni che migrano. E il tentativo di suicidio, l'onorevole Bartolo prima aveva fatto un riferimento anche a questo stato, come dire, estremo. Tra i giovani migranti in Europa i tentativi hanno mostrato di essere più elevati rispetto a quelli delle popolazioni ospitanti. Anche qui quindi c'è un significativo rischio aumentato per suicidio e tentativo di suicidio, ovviamente in questo caso, tra le popolazioni migranti e tra i rifugiati rispetto alle popolazioni. Dopo Mare, che tanto mo tra poco finite, dopo fai merenda. Sì, sto quindi arrivando alla conclusione. Diciamo che quindi i minori non accompagnati costituiscono una sottopopolazione a rischio particolarmente elevato di problemi di salute mentale. Questo anche emerge come evidenza dal rapporto dell'OMS del 2018, probabilmente a causa del loro maggiore rischio di eventi traumatici come la violenza legata ai conflitti, le minacce sofferte o assistite, gli abusi fisici e sessuali, così come la perdita di un parente stretto o un caregiver. Cioè, e questo è evidente ed intuitivo che appunto il minore, laddove non ha nemmeno il supporto del genitore, della famiglia monogenitoriale oppure una famiglia completa, si trovi a maggiore rischio di vulnerabilità. Quindi i minori non accompagnati sono vulnerabili allo sfruttamento sessuale, questa è anche un'evidenza che appare chiara, a causa della loro mancanza di protezione e dei sentimenti di paura, ignoranza, stigmatizzazione e impotenza. E spesso impediscono loro di denunciare i fatti, no? Quindi si trovano in una condizione di obiettiva soggezione, come dire, nei confronti di chi li sfrutta e di chi quindi li imprigiona all'interno della loro, come dire, vulnerabilità, e spesso sono presi di mira dai maltrattatori proprio per questi motivi. E si è visto che il 72% delle donne vittime di tratta ha mostrato di essere stato sfruttato sessualmente. Quindi le due cose sono ovviamente abbinate. Allora l'UNHCR nel 2017 ha indicato anche che anche i ragazzi hanno sofferto sfruttamento e abuso sessuale, spesso in contesti di detenzione in numero più elevato di quanto ipotizzato, cioè nei campi prima della partenza, quindi durante il tragitto, che ricordo non è solamente il tragitto via mare, perché queste persone arrivano anche dalle frontiere terrestri e soprattutto arrivano nei porti della Libia per partire verso, per esempio, le coste sud dell'Italia, dopo aver fatto dei percorsi molto articolati e molto perigliosi all'interno di paesi africani. Quindi, ovviamente, sfruttamento e abusati. E i minori non accompagnati, che vivono con membri della famiglia allargata, in condizioni di disagio economico, sono spesso a rischio elevato, perché probabilmente vengono utilizzati a scopo di lucro. Questo anche è stato riportato da molti studiosi all'interno appunto delle loro pubblicazioni. Le ragazze, quindi le donne, in questo caso migranti, con un rischio maggiore di essere costrette a una sottomissione, che non dà loro la possibilità di rifiutare un matrimonio infantile. Questa è un'altra delle problematiche che si aggiunge, diciamo, al problema dei migranti sfruttati, dei minori grazie sfruttati, e quindi anche i matrimoni infantili sono un'evenienza abbastanza frequente, così come la violenza sessuale e i matrimoni infantili hanno notevoli conseguenze fisiche, emotive e anche tra tutto di tipo psicologico, perché è anche frequente che esse si sposino e abbandonino presto la scuola laddove l'abbiano iniziata. Quindi, in conclusione di questa breve carrellata di evidenze che ho voluto appunto porre all'inizio, poi delle discussioni più tematiche sulla parte di salute mentale, vorrei dire appunto che delle raccomandazioni per la politica possono essere certamente quelle di incrementare il livello di attenzione nella tutela della salute mentale dei migranti e dei rifugiati. Non è mai scontato quello che appunto noi conosciamo della salute mentale degli immigrati. Molto spesso dobbiamo andare a riscontrare attivamente queste condizioni all'interno dei gruppi di persone straniere che sono nel nostro paese, quindi, come dire, incrementare anche attivamente. La seconda delle raccomandazioni che possiamo cogliere da questo rapporto è che lo sviluppo di strumenti condivisi per la rapida identificazione di condizioni di vulnerabilità è centrale per una presa in carico tempestiva e efficace della salute mentale. Quindi, in poche parole, l'invito a cooperare sempre più anche tra amministrazioni, enti, soggetti che magari si rivolgano a ambiti e a tematiche differenti, a operare sempre più tra di loro, perché l'identificazione della vulnerabilità è prioritaria all'interno di questo percorso di presa in carico delle persone immigrate. Ho terminato e quindi vi ringrazio. Grazie Costanzo, ringrazio per questa review della letteratura e anche per aver, come dire, dato i numeri e le indicazioni rispetto alla ricchezza di fattori che insomma pregiudicano la salute dei migranti. Vorrei anche dire che poi ne dirà forse qualcosa anche amico Giulio Corivetti, che noi speravamo di portare oggi qui un'indagine fatta in rapporto con, in collaborazione con il Dipartimento di Salute Mentale dell'ASL di Salerno e con l'Università Luigi Vanvitelli di Napoli, che stiamo realizzando dentro un progetto PAN, il cosiddetto progetto Pending, che è uno studio su 400, il nostro obiettivo è raggiungere 400 soggetti migranti ospitati nelle strutture, che vengono sottoposti a una batteria, sia colloqui psichiatrici e psicologici, una batteria di test per poter avere dati più puntuali sulle condizioni e sulle le presenze di eventuali patologie le tipologie di patologie eventualmente presenti. Purtroppo l'emergenza Covid rende tutto più difficile anche recarsi presso le strutture, ovviamente da parte delle equip che dovevano fare la rilevazione, quindi due stop successivi, quelli di marzo e quello attuale, ci stanno rallentando un po' nell'indagine, ma noi puntiamo a raggiungere l'obiettivo e credo potrà essere uno dei primi contributi realizzato in Italia di una valutazione puntuale delle condizioni della salute psichica dei migranti nelle strutture di accoglienza. Ci dispiace non poterne parlare oggi, ma insomma avremo, spero, modo di dare conto dei risultati dell'indagine.